ore 9.03 di martedì 18 gennaio 2005, anche se per la Xara patriarcale è il primo gennaio 1999, questo perché ho dovuto cambiare la batteria, che ieri ha deciso di abbandonarmi. E questo aprirebbe un capitolo abbastanza triste su che cosa significa cercare un elettrauto onesto a Pomezia, e un altro forse ancora più inquietante sul fatto che un esercizio commerciale su tre a Pomezia appartiene alla categoria degli elettrauto, degli autoriparatori in genere. Esiste una associazione che si chiama Associazione Autoriparatori Pontini, che è potente come la lobby del tabacco in Virginia praticamente, perché tiene in piedi il funzionamento di un'intera comunità, dato che tutti vanno in macchina anche per percorrere 200 metri. E il problema è appunto quello della principale expertise, della principale caratteristica, value proposition, per usare questi terribili termini del marketing, di un autoriparatore, che è sempre e comunque l'onestà prima ancora della conoscenza dei problemi e della capacità di risolverli. E tutto chiaramente inserito in un contesto come l'Agro Pontino, delinea perfettamente, cioè fa da sfondo ideale a quella che è l'esperienza del pendolare in una terra ostile. Il pendolo di libro di oggi vorrebbe riprendere almeno in parte il discorso lasciato a metà ieri. Parlavamo delle dichiarazioni di Rutelli sulla socialdemocrazia, sull'egualitarismo superati, e avevamo sfiorato il tema del Partito Radicale, che non è del tutto alieno ai cosiddetti alterna media, ai mezzi di comunicazione alternativi, in quanto i radicali, quando ancora non esisteva internet, quando ancora non esisteva il satellite, avevano realizzato il primo vero grande mezzo di comunicazione alternativo, che assunse le fattezze di questa radio radicale, che andava usato con molta cura come strumento di informazione, perché da una parte indubbiamente svolgeva un servizio pubblico, poi ha anche ottenuto il giusto finanziamento per il fatto di trasmettere non solo le dirette parlamentari, ma tutte le principali tribune della nostra vita istituzionale, politica, ma anche giudiziaria. Ricordiamo gli splendidi speciali giustizia, che ci hanno fatto vivere dall'interno i grandi processi, quindi più uno strumento di documentazione che di informazione, che aveva il pregio di non avere la mediazione del giornalista, in quanto il documento veniva restituito nella sua integrità. Però poi insieme a tutto questo c'era un vero e proprio strumento militante. Chiaramente le grandi campagne usavano, come ovvio che fosse, l'organo di partito, che era la radio del Partito Radicale, per mobilitare militanti e cittadini in ogni parte d'Italia, per esempio per raccogliere le firme per il referendum e così via. Quindi stava all'intelligenza dell'ascoltatore capire dove finisse lo strumento militante e dove iniziasse lo strumento informativo migliore, che in quel momento erano anni bui, forse meno bui rispetto ad oggi dal punto di vista della libertà di espressione, però non erano anni facili. C'era comunque la lottizzazione dei TG, non esistevano neanche allora editori puri a ben vedere, e quindi Radio Radicale rappresentava una ciambella di salvataggio prima che arrivasse poi anche internet, arrivasse il satellite a fornirne un'altra molto importante a chi ha la fortuna di conoscere le lingue straniere e quindi di decodificare altri segnali che arrivano da altri sistemi politici ed economici. Ora, Radio Radicale ha continuato a svolgere il suo compito, anche se è stata appunto ridimensionata da questa rivoluzione tecnologica. Nel frattempo il Partito Radicale è diventato anche un potente internet provider, è stato uno dei primi in Italia, del quale mi pregio di essere stato abbonato, di aver pagato per anni le pesanti 250.000 lire al mese per avere una connessione ad internet, ma questo nel 92-93 era normale. Partito Radicale ha anche messo in piedi un portale di video e audio on demand molto interessante, anche questo è un centro di documentazione impagabile, però come partito ha subito una grossa decadenza, soprattutto da quando la personalità di Marco Pannella ha cominciato a svolgere un ruolo sempre meno importante e sono venuti alla luce tutti quei personaggi che avevano usato il partito per formarsi politicamente e poi magari anche sposare altre cause, come il caso di Taradas, dello stesso Rutelli. Quindi indubbiamente il partito non ha più la forza, non ha più la capacità di incidere come una volta, anche se ogni tanto con grandi campagne dimostra di essere all'altezza dell'evoluzione dei mezzi che oggi la comunicazione mette a disposizione della politica.